perché non vuol, non, mangiare bene non vuol dire mangiare male. Quindi aglio senza, senza l'anima praticamente. Dobbiamo farmi mancare il nutraceutico. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Se rinasco, rinasco cipolla, perché mi, mi sembra che sia perfetta. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Tempo, comunque vadano le cose lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato e fino adesso niente l'ho mai fermato. È tutto più forte. Allora, 50 minuti al giorno, due volte alla settimana, io ho fatto due conti, tutto sommato, anche se la nostra vita è affollata di impegni, è un tempo che si può trovare e c'è chi è pronto a scommettere che, seguendo questa indicazione, la nostra vita cambierà in 10 settimane. Resta da capire come impiegare questi 50 minuti. Ci sono tanti modi, no, per farlo. Direi un bel corso di inglese in modo tale che possa arrivare a parlarlo come si deve. Può andare? Beh, dico qualcos'altro, che la stai prendendo un po' troppo alla lontana. Dammi un aiutino allora. Allora, qui ci vuole quindi un aiutino. Allora, ti faccio dare un aiutino, sì, dal nostro ospite misterioso. Su Facebook abbiamo dato degli indizi per aiutare i nostri amici a riconoscerla. Alcuni naturalmente l'hanno già indovinato, ma vediamo se qualcuno lo riconosce solo ascoltando la voce. Intanto buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, 50, un numero che ha portato fortuna a una scrittrice che è diventata molto famosa, ma erano sfumature, temo di andare di fuori tanti strada. Colori, sì. Di erano sfumature, sì. Sì. Ah, posso parlare? Sei autorizzato. Sono autorizzato, sì. E erano 50 sfumature, quindi qualcosa di differente. Noi stiamo parlando invece di movimento, questo. Così sta, stiamo svelando praticamente quello che è il nostro elisir. L'attività fisica, 50 minuti due volte a settimana, si intendono proprio il tempo necessario per stare in salute attraverso l'attività fisica, abbinandolo sempre e comunque alla corretta alimentazione. 50 minuti il sabato e la domenica, per esempio? Allora, sarebbe meglio spezzettare questi 50 minuti, perché consecutivamente è un po' inutile, è quasi dare troppo una sterzata al nostro organismo per poi abbandonarlo durante il resto della settimana. E ovviamente non è cosa così buona, ovviamente però dobbiamo farlo anche in base al nostro stile di vita, quindi possiamo anche in qualche modo abituarci. Dico sempre che anche una corsetta per dire nel weekend è meglio che stare sul in divano poltrona, perfetto, a guardare quindi, il film, esatto. Certo, assolutamente. L'abbiamo fatto parlare, secondo te hanno indovinato? Non lo so, possiamo provare a chiederlo. Proviamo. Eventualmente, se indovinano, che cosa facciamo? Non possiamo regalare quello che lui ha regalato a noi, possiamo però aprire come sempre la libreria di Cuore e Denari. 800 24 00 24 per cimentarvi nell'individuazione dell'ospite misterioso di oggi, oppure se volete scriveteci al 349 238 6666. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comodo anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia la. Un ospite che è un amico di Cuore e Denari, vi abbiamo chiesto di indovinare il suo nome, molti l'hanno già fatto, e possiamo svelare allora il suo nome. È qui con noi Marco Bianchi, che è venuto di torta munito. Altro di che melaccio munito. Melaccio munito, perché qua in questo contesto non si può parlare di torta. Non so poi se Marco. Ma poi mi era stata anche richiesta. Cioè, richiesta. Sì. So che era un desiderio, allora, e quindi ho vabbè, dobbiamo di... proprio dire tutto. Sì, a cuore denari, denari si viene portando sempre qualche cosa. Esatto. E Marco ha portato il melaccio. Ma si viene sempre mani piene, scusami. Si va mai mani vuote. Bravo, quindi... così ci piace. Noi speriamo che tu torni tutte le settimane qua a cuore denari per parlare con noi. Vogliamo tornare su questi però 50 minuti due volte alla settimana. E tu dici che in 10 settimane davanti noi ci troviamo cambiati davanti allo specchio. Assolutamente sì. Guarda, te lo dico, ma ho anche la prova proprio attraverso poi i social network di tutti i miei fan, insomma gli amici che mi seguono e che in qualche modo hanno visto anche loro stessi un risultato estetico, ma soprattutto anche interiore a livello proprio di esami clinici, ad esempio. Ho amiche o amici che sono riusciti a ridurre i propri trigliceridi, il colesterolo, semplicemente, e dico semplicemente perché lo fai anche con divertimento, sì, muovendoti e abbinandolo quindi anche alle mie ricette. Perché... quindi soddisfatti o rimborsati? Io direi di sì. L'importante però è essere coerenti, quindi non provare a muoversi per dire un paio di settimane, mangiare bene qualche giorno e poi magari mandare tutto all'aria dopo i primi tentativi, perché comunque è inevitabile, ci sia un minimo di sforzo. Quindi comunque... Sai che Deborah è una sportiva, eh? Lei, Deborah, tu ne ci sai. Ci provo, perché dopo che stai seduto 10 ore al giorno davanti a un computer, diciamo che la sera è fondamentale, quantomeno per la testa, un po' liberarla con il movimento, però poi mi diverto. Alcune domande... Hai detto una cosa giusta, cioè si diverte, perché poi dopo un po' che ci muoviamo realmente rilasciamo endorfine. No. Questa è una cosa... ti serve proprio per scaricare. Io divento isterica se non vado, e di Nicoletta lo sa, poveretta, perché durante la giornata poi mi deve sopportare. Ad un certo punto, con andare avanti della giornata, verso le 4, dice, le 5, comincia, dice, vai. Giorgio ci scrive al 349-238-6666. Va bene il Pilates, la domanda di Giorgio ci dà anche lo spunto per chiederti: attività aerobica, anaerobica, pesi, corsa, nuoto, come li strutturiamo questi 50 minuti? Allora, sicuramente, come dicevamo prima, anche una passeggiata lenta è meglio che stare su un divano, questo di sicuro. Dagli ultimi studi risulta che è più efficace un impatto aerobico più importante, quindi sicuramente più anche la classica scalinata. Se facciamo gli scalini però 2 gradini alla volta, è meglio che farne uno alla volta, tanto per intenderci. Il Pilates io l'ho provato, c'è Pilates e Pilates in base all'insegnante, al tuo istruttore, e ci sono dei Pilates molto intensi, quindi a me viene da dire che se comunque esce dal suo Pilates, che ha un po' la sua maglietta un po' sudata, gli va benissimo come risultato, perché comunque allena molto l'attività appunto muscolare, e comunque anche a livello mentale hai una concentrazione da dare che è notevole, quindi sì, va benissimo. Però lo sappiamo, l'abbiamo ripetuto tante volte, l'esercizio da solo non basta se non si accompagna a un cambio di rotta, diciamo così, anche nell'alimentazione. Su questo punto insisti da anni, Marco, e sicuramente ne parlavamo con Deborah, a te va il merito di aver contribuito a passare un concetto che a tavola si può coniugare gusto e salute. Tu insegni ai grandi, insegni naturalmente soprattutto anche ai piccoli, passi da loro per arrivare, vero? Parli, come per si forza. Dice, a suocera perché nuora intenda, nuora perché non lo so mai, però lavorando sui bambini tu arrivi anche ai genitori. E insegni a cucinare senza rinunce, perché ogni ingrediente, metto tra virgolette, un po' bocciato direi, è sostituito da un'alternativa gustosa, anche un po' sorprendente e creativa. Me ne viene una in mente: tu sostituisci il latte con il latte di mandorla, no? Sì, nei dolci va molto bene, ma questa è la più facile. Sì, è la più facile, nel senso che alla fin fine a volte abusiamo dei prodotti caseari, dei latticini in generale, e quindi ecco, ben venga che ci sia l'alternativa vegetale in questo caso, che nei dolci, per dire, o anche una colazione, portano più che benefici, perché comunque non manchiamo di proteine, non manchiamo di calcio, di ferro, di fosforo, quindi alla fin fine abbiamo comunque un alimento poi completo a nostra disposizione, certo, che però non ha controindicazioni. Quindi magari a volte, appunto esagerando con prodotti caseari, abbiamo anche una quota di grassi saturi importanti, e a lungo andare sappiamo bene che poi, arrivati a una certa età, dobbiamo anche ridurli per una questione poi proprio quasi di intolleranze anche che andiamo, certo, a sviluppare. Quindi ben venga che ci abituiamo fin da piccoli e facciamo abituare i nostri bambini, i nostri nipoti a questo tipo di di scelta. No, stavo ridendo perché Giorgio ci scrive: un'ora di Pilates e poi una bottiglia di bianco con mia moglie, il top. Vabbè. Ecco, è il discorso del bilanciare correttamente. Questi 50 minuti Giorgio li interpreta un po' come poi vuole. Piuttosto che il bianco, allora vada di rosso, così almeno ci porta dietro un po' di antociani, sicuramente. Allora, 800 24 00 24, alla donna di denari è venuto già in mente un tema da affrontare andando avanti con la trasmissione. Io l'atto di mandorla ogni tanto lo compro, Marco, però sono 3 euro abbondanti. Quindi qua so, forse insomma il mondo della produzione dovrebbe sensibilizzarsi un po' di più e magari adesso a qualcuno diamo spunto anche per distribuire prodotti, come dire, per sostituire quelli tradizionali, certo, ma a costi un po' accettabili. Buongiorno Nello. Buongiorno. Ecco, vorrei 3 panini all'olio. 3 panini all'olio. Un tubetto di pasta d'acciughe? No. Di un tubetto di, come si chiama? Di marmellata? No, Nello, andiamo. Un tubetto di maionese. Un tubetto di maionese per il maestro Natale. Ecco, vorrei una pesca noce per mio nipote. Anzi, 2, facciamo 3. E facciamo 3. Ecco. C'è tutto pronto? Ho guadagnato tempo. Segna. Proprio così, guadagnare tempo è importante anche quando andiamo a fare la spesa e la frutta può arrivare anche a casa. Noi abbiamo già parlato in tante puntate, Nicoletta lo ricorderai quest'estate, la famosa questione delle pesche nettarine andate che in c'è rimasta un po' qui. Non l'abbiamo proprio tollerata, insomma, questa frutta che si distrugge in Italia per questioni di quote produttive e, insomma, prezzi di frutta e verdura, dicevo, che crollano. Abbiamo parlato delle difficoltà di questo settore, quindi sicuramente ci interessa conoscere e raccontare iniziative che propongono modalità nuove per la distribuzione, per la scelta e l'acquisto di questi prodotti. Con noi oggi c'è anche Antonio Antonacci, che salutiamo, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, grazie anche agli ascoltatori. Dobbiamo dirla all'inglese, ma la traduco: start-upper e cofondatore di My Smart Food, una piattaforma online per l'acquisto di prodotti biologici che vuole coniugare freschezza, convenienza, comodità della spesa, ma anche contribuire, perché voi avete una sezione apposita sul vostro sito, alla diffusione, come dire, del sapere alimentare e la valorizzazione dell'ambiente e dei territori. Sì, un po' alla Marco Bianchi, direi, no? Certo, insomma, speriamo che non sia una questione di moda, ma di una filosofia che si sposa per convinzione, Antonacci. Certo. Intanto, che cosa fate con questa piattaforma? Poi andremo anche a tutto il resto. Sì, intanto grazie di questo paragone. Noi siamo soltanto agli inizi, Marco invece è già un divo della televisione. Diciamo che noi siamo partiti, così tanto per spiegare un po' agli ascoltatori da dove abbiamo iniziato il nostro percorso, da 2 aspetti di analisi un po' di questo mercato. Intanto dal fatto che anche un mercato tradizionale antichissimo come quello dell'agricoltura e della vendita di prodotti agricoli e alimentari è stato contaminato dai trend della tecnologia, certo, moderna, no? Quindi la diffusione del mobile, ma soprattutto la presenza dei consumatori online, che è stato un cambiamento epocale dal punto di vista dei rapporti fra produzione e consumo. Il secondo elemento è che la vendita dei prodotti alimentari è un compito molto difficile, no? Perché abbiamo un assortimento troppo vasto e profondo da spiegare, ma soprattutto mancano le idee semplici, intendo, per una guida della lista della spesa, che è l'aspetto più stressante di tutti noi. Ecco, noi siamo partiti da questi 2 problemi e allora, per dare valore al consumatore, abbiamo pensato di studiare un'offerta guidata da un piano nutrizionale che stiamo sviluppando con l'Università di Milano. Ottimo. Allora, andando sul sito di My Smart Food, tra l'altro segnaliamo già che dalla prossima settimana il vostro dominio cambierà, per cui magari chi oggi cerca questo indirizzo lo trova ancora secondo Lo troverà sempre, però dalla prossima settimana si troverà anche un nuovo indirizzo, che è smartfood.bio, molto semplice e speriamo anche molto più efficace, ovviamente. Bio perché comunque distribuite frutta e verdura biologica. Noi distribuiamo solo e soltanto frutta e verdura biologica, abbiamo fatto una scelta anche di valore, se vogliamo, quindi nell'indirizzarci ad un certo pubblico, ma vogliamo fare anche una scelta non solo sana, equilibrata ed ecosostenibile, sostenibile, ma anche una scelta politica, perché fra una scelta di un prodotto normale, un prodotto bio e non bio, è una scelta politica di cui magari poi torniamo dopo. Senz'altro, poi ci racconterà anche come vi rifornite, perché chiaramente a noi interessa soprattutto che a tavola delle famiglie italiane arrivino prodotti di qualità e soprattutto freschi, perché altrimenti tutto il vostro lavoro non ha senso. Quindi muoversi bene, mangiare bene, la qualità, noi dobbiamo regalarci qualità, Marco. Dobbiamo volerci bene, sì, dal punto di vista alimentare e fisico ovviamente. Prima parlavi anche delle 5 porzioni, prima, scusami. Sì. Ti interrompo, ma sappiamo anche quanto corrispondono queste 5 porzioni, perché a volte ci spaventiamo e non riusciamo ad arrivare anche alle quantità. Ecco, 5 porzioni corrispondono esattamente quasi a un chilo tra frutta e verdura al giorno. Sono le quantità che dovremmo consumare ogni giorno per proteggerci, per darci uno scudo in più per la nostra salute. Quindi sono 3 di frutta e 2 di verdura, che però anche in questo caso non dovrebbero spaventare, perché un paio di mele arriviamo già ai 350 grammi a volte. Sì. Quindi, insomma, se pensiamo al mezzo chilo di frutta, non è che sia così angosciante come quantità. Però ci spaventiamo nel dire 5 porzioni, no, non riesco a mangiare, non riesco a consumare. E invece dovremmo imparare, insomma, a volerci un po' più bene, quindi anche in qualche modo a sensibilizzarci, portarle più in tavola. Breaking news. È Il capitale umano di Paolo Virzì, il film è indicato poco fa all'Anica dalla commissione selezionatrice come candidato per l'Italia all'Oscar per il miglior film straniero. Le nomination per la cinquina si sapranno il 15 gennaio 2015. Lo scorso anno, lo ricordiamo, cominciò così l'avventura della grande bellezza. Bene, vedi, anche queste notizie nutrono, certo. Di grande soddisfazione. Marco, abbiamo parlato dell'importanza della frutta e la verdura, 5 porzioni, è facile arrivare a queste 5 porzioni di frutta e verdura, scegliamo naturalmente quella di stagione. Qual è, che cosa ci offre di interessante quest'estate che sta finendo? Un'estate, l'abbiamo ripetuto tante volte con Deborah, che è stato climaticamente un po' difficile, Che cosa c'è di interessante al mercato o nelle cassette che possono arrivare a casa? Io sto godendo ancora molto delle insalate che abbiamo, insomma, che riusciamo a reperire ancora per questo periodo, e insalate appunto quelle di stagione il più possibile, quindi lasciamo l'autunno, la trevisana, insomma, quelle che sono quelle più autunnali. I pomodori, io sto veramente facendo incetta di pomodori, è il periodo migliore poi questo per recuperarmi anche parecchi chili al mercato, diciamo, senza. Ecco, mercato quindi mercato, per Marco. Sì. Mercato e anche grande distribuzione. Hai molti impegni, ecco. Sì. Quindi immagino che sia anche complicato per te, no? Il mercato è solo al sabato o al venerdì mattina quando riesco a incastrarlo, diciamo. Ma sono delle puntatine ad hoc, nel senso che so di andare in quella certa bancarella a prendere, cioè trovare quello che trovo, ovviamente. Però in generale vado diretto, cioè non perdo tempo. Se una volta con la mamma, per dire, passeggiai al mercato felice, beato, adesso non è più questa libertà. Quindi vado diretto. Acquisto e vado a casa felice. Antonacci invece, allora, se gli ascoltatori avranno la curiosità di andare a vedere sul sito, ci sono già delle, come dire, casse di frutta e verdura precostituite, esatto, con esatto. Il prezzo chiaro indicato, c'è anche la versione per single, 17 euro. Adesso facciamo questa pubblicità, ma io perché proprio volevo spiegare nel dettaglio come funziona questo modello. In sostanza, intanto ci interessa capire come vi rifornite, perché vogliamo che, come dire, la filiera sia quanto più corta e breve possibile. Certamente. Sì, noi abbiamo 2 ordini di problemi. Da un lato, appunto, avere una filiera molto legata anche ai territori, certo. E questo d'accordo, però dobbiamo anche garantire alcune cose che sono essenziali per il consumatore. Intanto la continuità del servizio, cosa che possono dare soltanto organizzazioni che hanno una certa dimensione nazionale, come l'ambizione che noi abbiamo di voler arrivare a vendere anche in tutte le grandi città. Dall'altra la certificazione dei prodotti, perché non dimentichiamo che vendendo un prodotto alto di gamma, diciamo così, abbiamo anche la necessità però di dare delle garanzie al consumatore che effettivamente lungo tutta la filiera, quindi dal seme al frutto, alla produzione, alla logistica fino all'arrivo davanti a casa sua di questa cassetta, ci siano tutte le garanzie, che sia certificato, certo. E noi lo siamo da questo punto di vista. Ma voi come avete intuito la possibilità che questo modello potesse avere successo? Beh, il modello dell'e-commerce dici o quello no, dell'e-commerce legato alla frutta e verdura. Ah, della frutta e verdura. Perché, come dire, l'e-commerce, io se voglio comprare l'iPad nuovo, lo strumento della tecnologia, certo, ormai quello è un mercato assolutamente certo consolidato. Potresti comprarlo per me che non ce l'ho. Certo. Poi ne parliamo, ma no, ti posso, perché... però, si possono comprare oggi, capita abbigliamento di tutto. Certamente, come dire. Certamente. Noi abbiamo iniziato il nostro percorso con la frutta e la verdura, intanto perché è, diciamo, il prodotto più complicato, no? Per via della gestione del freddo, della catena del freddo, eccetera. Ma poi, per ritornare a quello che diceva Marco, perché la frutta e la verdura devono rappresentare la metà dell'alimentazione quotidiana di ciascuno di noi, e anche noi cerchiamo di dare un contributo in tal senso attraverso il nostro blog e il piano nutrizionale che sosteniamo ovviamente attraverso il blog. Puntiamo a sostenere le vendite di frutta e verdura, quindi aiutare le famiglie ad avere in modo sempre più facile e più semplice, diciamo, a casa una spesa certo sana e ecosostenibile. Benissimo. Poi ci racconterà qual è certo il consumatore che preferisce, insomma, che vi privilegia. Cuore e denari. Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Ippocrate. E siamo tornati insieme a Cuore Denari, una puntata un po' scoppiettante, sì. E qua accanto a noi abbiamo Marco Bianchi, ormai l'avete riconosciuto tutti, stiamo parlando anche di un nuovo servizio che ci porta frutta e verdura a casa, sulla, proprio sulla porta di casa, certo, dentro la casa. Dentro la casa, poi non ce la cucinate, per cucinarla ci non ancora almeno ci appoggiamo alle ricette di Marco Brava Bianchi. Anche, che però non ci fa solo mangiare cose buone, vuole farci anche muovere, qua, insomma, da qua non si scappa. 50 minuti due volte alla settimana è il titolo dell'ultimo libro, l'ultimo sì libro, dove comunque insieme a questi consigli per impiegare questi 50 minuti, che poi insomma sono in fondo un tempo abbastanza ragionevole. Dai, non riusciamo a ritagliarcelo, diciamo. Però ci dai anche il contentino e ci dai anche le tue ricette. A proposito di ricette, spesso succede che a proposito di frutta e verdura si compra la frutta e la verdura, magari si lascia lì nel frigorifero, che o se ne fa una scorpacciata o si finisce con il buttarla via. Esatto. Ma parlando di frigorifero, mi viene in mente che con l'hashtag Nel mio frigorifero tu inviti i tuoi fan, e quindi anche me e Deborah, a mandarti la foto del frigorifero, e tu la voglio no, guarda, il mio piange oggi, proprio non è il caso. Sai che io sono fissata invece col frigorifero, ogni tanto lo sistemo, sì, lo guardo, buonore, sì, e mi dico un po' in disordine, allora rimetto, mi piace mettere tutte le cose per benino, non è in disordine, è proprio vuoto, è vuoto, quella c'è l'eco dentro, c'è una, allora ve lo dico propriamente, c'è certamente il latte di soia, c'è un po' di zenzero, c'è un po' di, fammi pensare, c'è pensa c'è bene Debora, non c'è nient'altro. Ci sono forse un paio di marmellatine, c'è la marmellata di zia Luisa, quella senz'altro fatta in casa, e basta. Devo andare a fare la spesa, direi di sì, direi allora di sì. Perché neanche Marco Bianchi, che ai suoi fan promette, guardando, sbirciando nel frigorifero, di costruire, di inventare Le una piatti, ricetta, sì, sì, sì, con il frigo di Debora, mi sa che anche tu avresti grande difficoltà, sì, perché molta. Cosa sì le diresti? Beviti guarda, ci facciamo un decotto di zenzero, ci facciamo, e spalmiamo un po' di marmellata sul pane, perché veramente vabbè, allora, di fame non moriamo. No assolutamente. Poi quello di digiuno fa bene, quindi bravo, infatti guarda sta, che ha portato il tuo libro là, sì, sì. Le ricette del digiuno anche qui. E quindi Deborah, noi invitiamo i nostri ascoltatori a chiamarci, sì, per raccontarci che cosa hanno in frigorifero. Se vogliono mandarci la foto anche meglio, la mettiamo su Facebook, e così magari Marco oggi pomeriggio, visto che non ha niente da fare, prenderà una mezz'ora, darà un'occhiata alla nostra pagina sul social network, e magari così si inventerà qualche ricetta per ma i nostri anche ascoltatori. Su Twitter, Cuore e Denari, bravo, ci mettono la fotina, così almeno la guardiamo anche live. Fantastico, adesso lo possiamo fare, ne possiamo parlare naturalmente insieme a voi. Intanto voi ci state chiamando, e perché allora sentiamoli. Vuoi sull'attività fisica, vuoi sulla dieta, le domande naturalmente sorgono e nascono spontanee. Chiara da Piacenza, buongiorno, la prima ascoltatrice di oggi, che magari, insomma, se ci fa una bella testimonianza, magari così le possiamo anche anche regalare uno dei nostri libri. Che dici, Nicoletta? Guardi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, un piacere sempre ascoltarvi. Grazie, Chiara. È un piacere sempre ascoltarvi. Io faccio attività fisica quotidiana, tutti i giorni vado a nuotare in pausa pranzo. E da quando, circa un anno che lo faccio, da quando lo faccio ne ho tratto un giovamento sia a livello fisico che a livello mentale. È un relax ottimo per me. Io nuoto una cinquantina di minuti e poi ricomincio la mia giornata con maggior serenità, con maggiore voglia, con maggiore tutto, insomma. Mi piace molto. Allora, Chiara ha pronunciato un numero magico. 50. Neanche a volerlo. Cioè, veramente. E quindi Chiara il libro se lo porta a casa. Assolutamente. Assolutamente, Chiara. No, Chiara, frutta e verdura come ci riforniamo? Chiara, frutta e verdura come ci riforniamo a casa sua? Guardi, allora, ne mangiamo moltissima, ma non perché, cioè perché fa bene, ma anche perché ci piace. Noi mangiamo tantissima frutta e verdura. Io sono conosciuta tra le mie amiche come la capra, perché mangio molta insalata. E quindi insalata, ma tanti tipi di frutta e verdura, proprio perché a noi piace, e quindi è un piacere mangiarla per noi. Certo, è avvantaggiata. Io ho un papà che è un ottimo cuoco e si diletta a fare frutta e verdura, la verdura soprattutto in tanti modi diversi, proprio per farsela apprezzare ancora di più, insomma, ecco. Ottimo, Chiara, grazie per la sua testimonianza. Insomma, Antonacci, sì. Vabbè, frutta e verdura, diciamo, nella dieta mediterranea comunque non mancano. Assolutamente. Però, insomma, certo. Devo dire che arrivano anche qualche messaggio che, non dico, contestano un po' il tema e la filosofia della vendita online dei prodotti dell'ortofrutta, però, insomma, non si capisce bene come si fa a garantire il mantenimento intanto della qualità fresca del prodotto. È chiaro che voi non è che andate a comprare le arance di Palermo e le portate in Valle d'Aosta, come dire, si fa un percorso più breve? Certamente, ecco. Allora diciamo questo, che noi abbiamo un fornitore industriale di un certo livello, ecco. Perché ci rivolgiamo intanto ai consumatori delle grandi città, diciamo subito, e non dei piccoli paesi, ovviamente, dove la filosofia distributiva deve essere assolutamente diversa. E nelle grandi città, come sappiamo tutti, ci sono delle esigenze particolari, no? Ecco. Ed ovviamente il distributore industriale, diciamo, può offrire le garanzie, come dicevo, di qualità, di approvvigionamento e soprattutto di certificazione dei prodotti, ripeto, che è il tema fondamentale per chi fa una scelta biologica, e quindi deve essere certo e sicuro che chi gli vende un prodotto gli venda il prodotto che lui sta cercando, ecco. In 3 secondi, esiste un profilo del consumatore tipo che si rivolge a voi, che vi ha scoperto? Chi è che apprezza particolarmente questa modalità di distribuzione? Ma ovviamente la signora di casa che non ce la fa a far tutto, e magari chiaramente è comodo piuttosto che andare, certo, insomma, 2 ore al mercato. Diciamo però, noi siamo soltanto all'inizio, ecco, della nostra attività, e quindi non abbiamo uno storico, però ci siamo basati su quello che sappiamo delle realtà attuali. Diciamo che l'inizio è partito dai cosiddetti nerd, cioè quei ragazzi che sono capaci di manipolare questi strumenti informatici come se fossero le loro tasche, ma stiamo arrivando ad un consumatore molto evoluto, perché ripeto, con la diffusione dei dispositivi mobile, quindi gli smartphone piuttosto che i tablet, la disponibilità e la capacità di poter arrivare all'acquisto e-commerce sta diventando molto più facile, certo, ecco, più semplice. Allora, intanto i nostri ascoltatori si mettono in contatto con noi, rinnoviamo l'invito, dateci 3 ingredienti, quanti ingredienti ci devono dare? E almeno dai 3 al minimo. Dai 3 perché, e poi Marco li combina e noi prendiamo nota. Il latte di soia, lo zenzero e la marmellata. Ti sei dimenticata il ghiaccio, potevi aggiungere anche un cucino, ce lo facciamo. Mi hai distrutto però. 800 24 00 24, vorrei dare spazio anche agli ascoltatori che ci inviano i messaggi, il 349 238 6666, ce ne sono già paginate. Marta da Padova ci scrive: se io la verdura e la frutta la bevo attraverso un succo, un estratto di succo, dovrebbe essere una cosa buona, giusto? Allora, sì, relativamente, perché se è l'unico modo in cui assume la frutta, la verdura, non va bene, nel senso che dalle centrifughe fino agli estrattori purtroppo perdiamo parecchie fibre che sono una componente importante del mondo vegetale che dovremmo portarci dietro. Quindi va bene, diciamo, ma alterniamola a dei frullati, ecco. Se frulla la frutta, la verdura, sicuramente porta dietro anche fibre e va bene. Ricordiamoci sempre che devono essere per tutte consumati questi prodotti che andiamo a preparare nell'arco di un 15-20 minuti, massimo 30 minuti, e comunque sempre al fresco, perché si ossida tutto. Si ossida e andiamo a perdere la gran parte della componente poi vitaminica, quindi è fondamentale. E nel caso in cui stiamo anche frullando qualcosa di molto arancione rosso, proprio detta così veloce, aggiungiamo anche un cucchiaino di olio extravergine all'interno, o delle mandorle o delle noci, le frulliamo all'interno, in modo tale che attraverso la frazione lipidica grassa andiamo ad assimilare le vitamine che invece non andrebbero, se no andrebbero a perdersi completamente. Una domanda che Nicoletta ricorre sempre quando parliamo di queste famose 5 porzioni di frutta e verdura, Mario chiede: ogni giorno 5 porzioni in totale o 5 di frutta o 5 di verdura? Ce la faremo a dirlo una volta per tutte? L'ho capito persino io che sono una testa proviamo dura. Proviamo a farlo dire a Marco Bianchi, magari lui incidi, trova sulla pietra questo messaggio, Marco. 5 porzioni in totale, quindi 3 di frutta e 2 di verdura. Però ci sono anche le domande. Allora, tu ma hai parlato di metterne... Bravo, vai, fatti le domande e dati le risposte. Solitamente gli amici poi mi chiedono direttamente: guarda, ma se invece io consumo 5 di verdura o 5 di frutta, perché non riesco a consumare frutta, perché non mi piace quello, diciamo che va bene lo stesso, nel senso che comunque è importante far variare però all'interno il mondo vegetale, nel senso. Non mangiamo sempre solo 5 mele. Antonacci non me ne vorrà, perché no, sennò assolutamente, ma infatti anche noi le loro casse sono anche ben noi, esatto, non sono quasi mai monoprodotto, anzi non sono monoprodotto, ma sono sempre un mix di varie vegetali. Io dico sempre che il finocchio fa bene, ad esempio, come fa bene la banana piuttosto che l'arancia, ma non possiamo vivere nella giornata di 5 porzioni o comunque 5. L'unica cosa che fa sempre bene è ascoltare Cuore e Denari. Ormai ci guardiamo e Danilo, buongiorno da Cuneo. No, sta per andare in onda il traffico. Eccolo là che ci richiama l'ordine. Ci accompagna? Buongiorno. Sì, Danilo, venga con noi e ritorniamo insieme. Cuore e Denari. Allora, ti vuoi spiegare? È tutto il giorno che sei via. Vai, per piacere, quel che assomiglia a un cammello da soma, per piacere, è tutta la mattina, e carichi, salto come una pista. Pure di caricare i fagiolini e i peperoni, sei diventato un baccolo. Tengi giù i termini. Eccoci ritrovati, allora subito la parola agli ascoltatori, direi che vivacizzano il nostro programma quest'oggi, sentiamo quanti consumatori di frutta e verdura abbiamo all'ascolto, come si riforniscono e se hanno anche, come dire, adottato qualche ricetta di Marco Bianchi. Che ci stava raccontando. È un metodo straordinario, Marco incontra i suoi fan da un anno all'altro, da una presentazione all'altra, e gli raccontano che proprio utilizzando le sue ricette, quindi cambiando anche il modo di cucinare e di abbinare gli ingredienti, naturalmente facendo anche attività fisica, si modellano. È vero. Ma questo a volte perché basta semplicemente eliminare un po' delle cattive abitudini, e semplicemente una persona abituata magari a consumare prodotti molto salati, esempio, passare a prodotti di origine integrale, molti cereali, introdurre più frutta e verdura che magari non sappiamo come cucinare, ma ti do l'idea, basta, ma lì. Allora, noi chiediamo ai nostri ascoltatori 800 24 00 24 di dare a Marco Bianchi 2-3 ingredienti, naturalmente ci deve essere almeno della frutta o della verdura tra questi 3 ingredienti, sì. E lui vi creerà una ricetta, faremo una specie di mini libro di ricette oggi in diretta partendo dai vostri suggerimenti, dai vostri ingredienti. Dove andiamo? Allora, no, avevamo chiesto di aspettarci a Danilo, se non ricordo male. Danilo, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie Danilo. Io volevo portare la mia testimonianza. Unitamente a mia moglie e i miei due bambini abbiamo deciso di avvicinarci al mondo vegano da un paio di mesi, quindi abbiamo bandito quasi totalmente le proteine animali. Che se ne dica, sopravviviamo, stiamo bene, io faccio molta attività sportiva, continuo a farla, le mie prestazioni prima non erano eccesse, però non sono peggiorate da quando mi nutro in questa maniera, credo che sia il futuro. Se veramente si vuole parlare di ecosostenibilità, di ecocompatibilità, bisogna, secondo me, seguire questa via, rivedere il nostro rapporto sia con la natura ma anche con il mondo animale, perché io inviterei tutti a farsi un bel giretto in una stalla, in un macello, e poi gli offrirei anche una bella fiorentina a vedere se la mangiano ancora. Danilo, scelta quindi di natura quasi anche esclusivamente etica. Sì, comunque come abbiamo dedicato proprio una puntata, Danilo, al passaggio dalla un'alimentazione onnivora ad una dieta vegetariana e poi vegana. E la raccomandazione dei nostri esperti che sono stati con noi è stata quella di affidarsi in questo cambiamento a dei medici, a delle persone esperte, competenti. Proprio competenti, per far sì che questa scelta alimentare sia ben equilibrata, quindi che non abbia carenze, perché si può affrontare assolutamente, Marco mi confermi, una dieta assolutamente vegetariana ma con alcune attenzioni, perché il nostro organismo ha bisogno di alcuni nutrienti, certo, e quindi noi dobbiamo, indipendentemente dalle nostre scelte, riuscire a fornirgliele. Proteine, peraltro, mattoncini dei quali parleremo domani, posso sì, anticiparlo? Certo. Andiamo a Bologna, al Cersaie, e parleremo anche delle mattonelle, delle piastrelle mattoncini del nostro corpo. È vero. Allora andiamo a Leonardo. Andiamo a Leonardo, sì, che voleva salutare, credo, Marco Bianchi. Leonardo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah. Ciao, buongiorno. Marco. Buongiorno. E voglio, ecco, appunto farvi un saluto in diretta e ringraziare voi, Marco, per tutto quello che fa con queste sue ricette. La promozione di questo stile di vita veramente gustoso, vero? Gustoso, esatto, ricco di gusto e di benessere, come dice spesso Marco. Leonardo, lei l'ha cucinato il melaccio? Allora, io ho fatto tutte le ricette di Marco praticamente e non solo, volevo, è una notizia praticamente di qualche ora fa e praticamente sono un insegnante di nuoto e le mamme dei miei bambini mi hanno mandato le fotografie questa mattina dei muffin che hanno fatto in sostituzione delle merendine industriali come merenda. Ma complimenti, ma complimenti, bravo, bravissimo, che soddisfazione. Leonardo, grazie. Grazie. Grazie a voi, ciao Marco. Ciao Leo, grazie. Allora, no, volevo dire ad Antonio Antonacci, mi raccomando, anche lei l'anno prossimo deve venire e riscuotere questo consenso da parte dei suoi fans club, se naturalmente la sua iniziativa. Certo. Peraltro, senta, intraprendere un'attività di questo tipo nel nostro paese, come dire, fondare una startup di questa tipologia, è difficile, è facile, magari, che ne so, anche un po' per movimentare il settore agricolo dell'agroalimentare nel nostro paese, per i piccoli produttori, veicolari, i loro prodotti anche con queste modalità potrebbe essere molto importante. Beh, assolutamente sì, assolutamente sì, però dire che è facile, diciamo che è una parola grossa. Esatto, è una parola molto grossa, perché insomma, intanto ci sono tanti problemi che adesso qui è difficile raccontare, però diciamo che l'ostacolo più grosso che io vedo è di natura finanziaria, perché in Italia sono difficili, come si sa, è difficile ottenere i finanziamenti per le idee che possono essere interessanti. Benissimo, però, benissimo, non tanto, però insomma, grazie per aver tenuto duro e per aver assolutamente sì, noi teniamo molto duro, sì, perfetto. Ci teniamo molto e pensiamo che debba essere vincente questa idea. mysmartfood.it da lunedì.bio, quindi ricordiamolo per chi volesse naturalmente andare un po' a curiosare questa modalità di distribuire. Noi salutiamo Antonio Antonacci per essere stato con noi. Grazie davvero. Credo che fra un po' andremo al giornale radio. Sì, però abbiamo... Marco rimane con noi. Sì, allora chiediamo al nostro Antonacci se vuole dare lei un 3 ingredienti del suo frigorifero, che immagino sia strabordante di frutta e verdura. Marco Bianchi, che in 30 secondi, giusto per prima di andare al nostro GR, le dirà come cucinare. Vediamo. Ma, mettiamolo alla prova, che cosa ci mette? Diciamo che la cosa più semplice è l'olio, i broccoletti e l'aglio. Olio, broccoletti, ci c'è una bella pasta, dai. Ah, cioè, che buona. Ho già fame, anzi, veramente. Ti ho dato una palla facile. Sì, davvero, senta, davvero. Antonacci, invece un messaggio glielo giro io. Dica. Latte di soia, latte di mandorla, tutti i latti alternativi al vaccino, cercate un modo di distribuirlo a prezzi convenienti. Assolutamente guardi sì. Guardi un po' che io divento una vostra cliente. E perché... dopo questa fase di avvio, che è fondamentalmente focalizzata la frutta e la verdura, introdurremo anche noi altri prodotti biologici. Va bene, allora grazie ad Antonacci, il nostro grazie GR, mamme grazie all'ascolto, fermatevi con noi. Cuore e denari. Banane, lampone, chi c'era con te? tampone, Deborah, prendiamo anche le zucchine, le melanzane, ma anche cereali integrali. Sì, sì, certo. Mandorle e noci non ci dimentichiamo mai. Assolutamente questa componente mai. Che ormai per me è insostituibile. 30 grammi al giorno. Arriva anche la posologia anche per questo, quindi bisogna dirlo. Infatti, scusate, noi oggi ci sediamo a tavola insieme a Marco Bianchi. Anzi, prima di sederci a tavola andiamo in cucina, invitiamo naturalmente le mamme all'ascolto di bambini piccoli o di adolescenti che sono spesso un po', no, restii a consumare le famose 5 certo. porzioni di frutta e verdura al giorno. Io dico che però, Marco, tu che nelle famiglie ci, insomma, entri e ci bazzichi, diamo sempre la colpa ai bambini. In realtà, se in famiglia le verdure i grandi non le mangiano, se la mamma o il papà che cucinano le presentano sempre in, no, mal preparate, buttate lì come se fossero delle medicine, c'è l'imposizione finisci le carote, allora il bambino naturalmente la frutta e la verdura non la mangia. Assolutamente. Ma non di solo frutta e verdura dobbiamo, no, crescere e nutrirci. No. Lo facciamo naturalmente oggi con i consigli di Marco Bianchi. Quindi inviateci, come lo state già facendo, via Twitter, ma anche al nostro numero verde, tre ingredienti che avete in frigorifero. Esatto. Devono essere solo in frigorifero, Deborah? No, dai, allarghiamo un po' anche la dispensa, sì, certo, in generale. Certo, certo. Magari qualcuno anche, che ne so, qualche orticello sul balconcino, no? Certo, oppure in dispensa la quinoa, Deborah. Non capisco perché tu faccia questo riferimento, perché l'ho cucinata da schifo questa settimana. Non avevo una chiara indicazione sulle proporzioni fra acqua. Due parti quinoa. Di acqua. Oh, parte ottimo. Di pseudo cereale, e poi per chi si chiede che cosa sia, diventa quasi come un couscous. Couscous, esatto. Sì, però quindi molto ricca di calcio, tantissime proteine e omega 3, quindi grassi insaturi buoni. Cosa ci mettiamo poi? Delle verdurine sopra spezzettate? Verdurine sopra, oppure la passiamo un attimo al frullatore, diventa un po' una poltiglia che unita a una a un trito di cipolla, andiamo proprio a manipolarla, a lavorarla, diventano delle polpettine o dei burger fantastici. E qua mi collego perché me l'hai veramente servita su un piatto d'argento. Sì. Salutiamo anche Morena, la sorella di Deborah, che cucina meravigliosamente bene alla Marco Bianchi, e lei sa cucinare la quinoa perché la frutta insieme alle lenticchie per fare i burger. Sta cimentando con i bambini, è vero. E questo è un modo, appunto, come si diceva prima, se lei stessa lo prepara, prepara qualcosa di buono per i bambini, sicuramente diventa qualcosa di gustoso poi per tutti. Allora andiamo a Teresa che ci chiama da Palermo e poi ti do. No, Teresa sì. è scappata. Ma adesso la recuperiamo, guarda, rapidamente. Zucchine. Sì, Francesca su Twitter ci fa la fotografia del suo frigorifero. Sì, via. Zucchine. Sì. Primo sale, sedano rapa. Taratata, ci vorrebbe la musichetta di. Allora andrei a frullare andiamo a frullare il sedano rapa per farne poi una maionese sostanzialmente. Ah. Che andiamo a servire con queste zucchine. Che a me piace moltissimo gratinate al forno, quindi le tagliamo a metà, le svuotiamo e le andiamo a riempire con la stessa zucchina che abbiamo svuotato, che abbiamo frullato insieme al primo sale. Buttiamo tutto in forno e vengono appunto queste zucchine gratinate buonissime che andiamo a servire con questa maionese di sedano rapa. Fantastico, hai lasciato senza parole. È vero, perché però sembra tutto pronto, ma non è così, assicuriamo le nostre ascoltatori. Teresa da Palermo l'abbiamo ripescata. Sì. E però ecco. Poi Teresa, buongiorno e benvenuta. Poi ci racconti le melanzane e le carote nel forno. Va bene, fresche, certo. Fresche, peraltro, fatte proprio. Teresa. Eccomi. Eccola. Allora, intanto io sono una fan sfegatata di Marco e lui forse già ha capito anche chi sono. Il mio problema, è colgo l'occasione della trasmissione così seguita, è quello di una donna che nell'età della menopausa naturalmente ingrassa, anche se io per fortuna combatto bene usando dei prodotti secondo i consigli di Marco. Il problema è che quando il mio medico mi dice signora, ma lei mangia troppa frutta, ecco, sa quanto zucchero assume, volevo che rispondesse Marco. Ecco, a questo medico. No, però la fermentazione un po' dell'eccesso di frutta è un problema che esiste, Marco, perché io ne sono un'altra testimone. Sì, è vero, è molto soggettivo questo discorso, proprio anche in base alla nostra fascia d'età e in base appunto a come siamo stati abituati anche in passato, quindi a volte cambiare repentinamente è un po' un problema. Di sicuro abbinando però la frutta in questo caso a magari anche dei carboidrati con un indice glicemico però molto basso, come può essere l'avena, tanto per dire, andiamo a ridurre anche questo effetto della fermentazione. Invece una crusca molto, molta crusca, invece aumenta poi questo effetto di fermentazione. Quindi è un po' proprio anche il discorso di abbinamento dei nostri alimenti. Per il discorso quota zuccheri assunti, dipende cosa mangia la persona durante la giornata, perché comunque in Veneto ci mangiamo la fetta di ciambellone a ogni pausa caffè, è ovvio che diventa un problema notevole poi. Ma anche 3 mele a pranzo, magari uno pensa di aver fatto una ottima sostituzione. Perfetto, no? Invece dai una botta comunque di zuccheri, inutile poi, perché comunque poi riporti poi anche velocemente l'appetito. Io ho riconosciuto Teresa, assolutamente, che sono anche contento di rivedere il 2 ottobre. Ci vediamo giovedì prossimo a Palermo, a Villa Niscemi. Ottimo. Teresa, guardi che ha sentito, lei chiama Cuore Denari e Marco Bianchi dà un appuntamento a Teresa. Io lo conosco. Io lo conosco da quando era piccolo e non mi ha mai dato un appuntamento. Hai ragione, Nicoletta. Teresa, un bacio, grazie. Andiamo ad Andrea dalla provincia di Padova e qua ecco che spalanchiamo la porta alla questione dell'alimentazione dei bambini. Vogliamo diventare tutti come Morena, la sorella di Deborah, che sì, fa le cose per bene. Esatto. E no, tra l'altro ieri sera mi ha anche promesso, te le faccio, gli hamburger, ceci e bulgur, quando vieni. Hai visto? Ecco qua. Ti hanno accontentato quindi. Sì. Poi vi racconterò come sono. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per la compagnia giornaliera. Grazie per la vostra trasmissione. Ecco, io sono il papà di due bambini, uno di 9 e uno di 11 anni. Ecco, il problema è che dargli la frutta da mangiare tutti i giorni diventa un impegno con loro. Mm. Allora abbiamo trovato la maniera di farli frullati, banana, mela, insieme con anche qualche carota. Ecco, secondo il vostro esperto, va bene fare così o è meglio insistere un po' a dargli la frutta? Andrea, lei la mangia la frutta? Tantissima, frutta e verdura dalla mattina alla sera. Ecco, quindi poi sicuramente crescendo i bambini cambieranno sicuramente loro... cambiano sì, i bambini. Sì. Per fortuna sì, assolutamente. Sì. Come cambiano gli adulti anche, certo. Però. Ad ogni modo, l'ideale è sì, continuare tranquillamente con i frullati, anzi lo diciamo prima, il frullato porta dietro con sé anche tantissime fibre che se non andrebbero a perdersi, quindi è un modo per consumare tranquillamente frutta e verdura. E come ribadevo prima, mettiamo magari all'interno anche della frutta secca, che comunque con i suoi grassi frullata all'interno permette poi di assimilare al meglio il tutto. Un'idea però può essere anche cucinare la frutta attraverso i dolci. Dai, allora andiamo alla ricetta del mio mitico melaccio. No, non lo dicevo per questo. Perché l'abbiamo qua. Esatto, no, diciamo pure che proprio l'ho chiesto esplicitamente, ma con una faccia proprio come una sfacciata che non finisce più. Però, allora, il melaccio. Allora, sono circa un chilo di mele, quindi tra le 800 e un chilo di mele. Qualunque mela? Sì, di stagione. Dai, adesso facilitiamoci le cose. La raffinata così. Vabbè, se uno vuole seguire alla lettera le sue prescrizioni, quindi mela. Allora, sì, abbiamo circa 800 kg di mele, e poi andiamo ad aggiungere 250 g di yogurt di soia, del gusto che vogliamo, anche bianco va benissimo. Mm-hmm. E poi abbiamo un pugno, una bella manciata di uvetta sultanina che abbiamo lasciato reidratare in acqua tiepida. Mm. Aggiungiamo 180 g di farina integrale. Possiamo fare anche un metà farro, metà farina zero, semi integrale, insomma giochiamo anche molto con le farine. Sì. E poi un 50-70 grammi di frumina, cioè amido di frumento, che regalerà un po' di sofficità alla torta. Bustina di lievito. L'amido di frumento è come la maizena, no? Sì, una viene dal mais, l'altra dal frumento, sì. Ok, va bene anche quella? Va bene, sì, okay. Va bene anche la fecola di patate, quello che vogliamo. Va bene anche, se per caso non ce l'abbiamo, non metterla. È capitato, e viene bene lo stesso. Ha una marcia in più se c'è però. E poi appunto, non credo di averlo ancora detto, 70 grammi di zucchero integrale di canna. Tutto questo verrà un mappazzone. Non ho capito quanto, signori. Non ho capito 70 grammi. Okay. Verrà un mappazzone per il semplice fatto che rimane molto compatta come torta, non farà il filo, il classico filo al cucchiaio. Però infornata un'ora, 200 gradi, 180-200 gradi ed ecco il melaccio. Quanta per colazione, Marco? Un quarto. No, addirittura. No. Beh, però tranquillamente, guarda, una bella porzione, anche perché si chiama melaccio perché richiama un po' il castagnaccio perché rimane molto umida. Sì. E comunque è molto piena, quindi ti accorgerai che ne mangi anche un bel quadrotto di 10 centimetri per 10, sei veramente a posto poi, quindi provatela. Tu cosa hai mangiato per colazione stamattina? Ah, l'ho postata anche, quindi non posso mentire. Ho fatto la foto. È una coppettona di yogurt vegetale al mirtillo con dentro avena, appunto, ma per il suo... tutti suoi motivi buoni, e tanta frutta secca all'interno e uvetta sultanina. Tanta, cioè i 30 grammi sì, quotidiani? Sì. L'ho già esauriti, 30 grammi stamattina praticamente. Senti, e a minuti di attività fisica come siamo? I 50 sono già stati fatti oppure... Allora, ne sto facendo 10 al giorno praticamente. Quindi... Sto già sperimentando un nuovo libro, quindi a fine ottobre uscirà il nuovo libro che è Io mi muovo, in cui appunto dopo 50 minuti, due volte a settimana... Sono andato a sperimentare e sto sperimentando un minutaggio inferiore, però molto più forte, perché quello che si evince dagli ultimi studi è proprio questa forte, per accelerare l'attività metabolica e farci lavorare anche dopo che finiamo l'attività fisica, è importante appunto lavorare a forte impatto, quindi 10-15 minuti al giorno sarebbero l'ideale per mantenerci proprio in forma e in salute. Volevo, magari sei d'accordo Nicoletta, con te sempre. No, perché c'è chi mia bella melacciona. Io non vedo l'ora di mangiarlo. Guarda, non mi dire niente, io ce l'ho lì da una parte, da tutta l'ora. No, c'è chi ci sta dicendo smettetela di demonizzare il consumo di carne. Chi no. Perché qua, insomma, a seconda di come la mettiamo, anche un altro ascoltatore, definire buonissimi gli hamburger di quinoa, frullata, cipolle. Non l'ho mai assaggiati. Esatto, allora noi qua accogliamo tutte le novità, ma come dire, questo nuovo modo di alimentarsi non è una novità. No. Per cui cerchiamo di essere rispettosi di tutto quello che abbiamo attorno. Certo, nessuno demonizza nulla. No. Esatto. Però, noi parliamo sempre anche di quantità, adesso vorrei dirlo, lo dico sempre, Marco Bianchi parla in generale per conto dei dati scientifici, se il VCRF, quindi i nostri dati del Fondo Mondiale della Ricerca sul Cancro e non solo, ci riportano che dobbiamo attenerci a certe quantità di alimenti, è buona cosa seguirli. Sì, quindi, ma poi ognuno, no? E poi ognuno è libero di scegliere. Assolutamente, cioè, l'importante, ecco, stiamo sereni. Sempre. Ecco, ricordandoci che la vita è una. Qua andiamo da... Jane. Allora abbiamo Jane da Bologna, dove noi andremo domani. Esatto, quindi Jane, se vuole anche venirci a seguire a Cersaie, noi saremo contenti di salutarla. Jane ci ha scritto un messaggio poco fa e noi ben volentieri appunto l'abbiamo ripescata anche con il nostro numero verde, perché vorremmo raccogliere la sua testimonianza. Jane, buongiorno. Buongiorno, in realtà sono Gianna. L'hanno un po' cambiato il nome, internazionalizzata. Gianna da Bologna. Volevo tantissimo ringraziare Marco, perché da quando ho iniziato a vedere il suo programma Tesoro Salviamo i Ragazzi, io e la mia famiglia abbiamo cambiato la nostra alimentazione, perché come lui dice, parlano i dati scientifici. Io grazie a lui ho conosciuto in seguito, mi sono un po' informata e ho visto che in effetti quello che lui dice corrisponde non solo alla realtà, ma fa vivere meglio anche la famiglia con bambini. Il nostro problema principale, il mio personale, è dei bambini, cioè crescerli in un mondo più, cioè crescerli in modo certo. più sano. Mio figlio ha avuto un problema di salute poco tempo fa, per il quale stiamo ancora combattendo, però grazie ai suoi consigli sono riuscita innanzitutto a far mangiare la verdura a mio figlio, che non ne voleva sapere proprio niente di mangiare la verdura. Adesso quando io gli porto a tavola un piatto, lui dice: ma una ricetta di Marco Bianchi? Dai, troppo diciamo carino. Diciamo che per me è una soddisfazione. Eh sì. E per me è ancora di più, Gianna. Guarda, grazie mille per questa telefonata, messaggio, veramente. Sì, è un racconto che scalda grazie, il cuore. Grazie davvero. E tra l'altro sottolinea un aspetto molto interessante, perché insegnare ai nostri bambini a mangiare bene è fondamentale per la loro crescita, ma l'infanzia è proprio un momento strategico per mettere le basi per la salute futura. Direi che è proprio il momento d'oro. In linea con noi abbiamo la dottoressa Maria Giovanna Luini, senologa IEO. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Marco, sono una grande fan di Marco e quindi sono molto emozionata. Ciao Marco. Ciao tesoro. Ciao. Allora, dottoressa Luini, Lei nel suo ultimo libro, L'età della donna, edito da Schira, di cui abbiamo parlato con Deborah, che proprio pochi giorni fa, e che ci è piaciuto molto, sì. Segue proprio l'universo femminile e approfondisce molto questo tema, ossia l'importanza della prevenzione, che deve iniziare fin da piccoli, che dico addirittura già nella pancia della mamma. Sì, per un motivo molto semplice: la nostra flora batterica intestinale, quindi tutto ciò che noi abbiamo nell'intestino e che ci aiuta a rimanere sani, non solo a digerire meglio, per esempio a prevenire le infezioni o le malattie autoimmuni, si forma durante i primi mesi di sviluppo, sia nella pancia della mamma che quando siamo neonati o bambini molto piccoli. Quindi il nostro intestino impara a difenderci dalle malattie grazie alla flora batterica che si sviluppa lì, E come si sviluppa lì? Con una buona alimentazione. L'alimentazione consente al nostro intestino di proteggerci poi per tutta la vita adulta dalle malattie grazie a quei piccoli batteri che si formano come conseguenza di una buona alimentazione. Quindi verrebbe da dire che a tempo non aspetti tempo, già, sì. Bisogna ecco, che i genitori questo siano ben consapevoli di questo momento preziosissimo, sì. Un investimento, Deborah, proprio, a tutti gli effetti esatto. Ma naturalmente non è mai troppo tardi, come no, diceva il titolo di una fortunata trasmissione. Assolutamente, tra l'altro ora, io all'inizio ho salutato Marco con enfasi, voi sapete che mio amico, ma in realtà è anche una persona che ha una forte credibilità scientifica, perché è vero che la sua alimentazione si basa su dati scientifici, quindi questo è importante, perché per tutta la vita noi possiamo alimentarci bene. Senta, dottoressa Luini, prima di salutarla, a proposito, no? Volevo chiederle un commento. Sì. E volevamo, ci allarghiamo un po' sulle dimissioni di Veronesi, perché noi abbiamo parlato. Vogliamo anche che ce lo saluti. Sì, certo. È stato tante volte anche ospite di Essere Benessere. E continuerà, ci auguriamo, a venire anche a Cuore Denari. Ma ecco, un commento. Ma lui continua a essere direttore scientifico emerito dal 1 gennaio 2015 dello IEO. Il nuovo direttore scientifico sarà Roberto Recchia, un bravissimo medico cui sono molto affezionata, però il professore sarà con noi, continuerà a essere con noi, continuerà da emerito a essere IEO come è sempre stato. Peraltro continuerà a scrivere libri. Continueremo a scrivere libri insieme, di questo sono felice, e continuerà a fare il medico nel suo studio a Milano, come ha sempre fatto. E speriamo che venga presto a trovarci a Cuore Denari. Ecco, magari facciamo adesso tutti insieme, Marco Bianchi, Giovanna Luini, tutta la squadra, assolutamente. Bello, mi piace questa cosa, molto. Bene. Giovanna, ciao allora. Marco, ci dobbiamo sentire per radio, ci dobbiamo sentire. Ma incredibile, infatti. Allora Marco, tu ci vai in controprogrammazione con Antonella Clerici, ma noi non siamo gelosi, anzi ti auguriamo naturalmente tutto il bene del mondo, anche con questa avventura televisiva. Grazie. E noi, cara, grazie per l'invito, ragazze. Noi ti aspettiamo sempre a braccia aperte. Benissimo. E a frigoriferi benissimo, aperti. Esatto. Direi. Io vado a mangiare il melaccio, tu vai a lavorare per la puntata di domani. Vi saluto. Grazie, buona giornata. A domani da Bologna. A domani da Bologna.